Da dove originano i valori critici? I valori critici sono espressione delle aree sensibili di una personalità, e quindi sono dovute alla sua biografia, alla storia della sua vita, al ricordo del suo vissuto appunto nella famiglia, nella scuola. Quindi può essere collegato a problemi che ha affrontato durante l'infanzia e magari non superato. Quando noi tocchiamo un valore critico negativo, lo attiviamo e quindi scateniamo lo stato problema dell'altra persona, e questa persona cosa fa in realtà? Non si esce dalla situazione presente, regredisce, va a finire nel passato, regredisce, è come fosse tirato da un elastico. In analisi transazionale si chiamano sentimenti elastici, quindi non ci troviamo di più di fronte a una persona che reagisce a quello che diciamo noi in quel momento, ma ci troviamo di fronte a una persona che è finita in un'altra zona temporale, in un altro ambiente. Conoscere questo meccanismo vuol dire conoscere il segreto della comunicazione con gli esseri umani. Da qui deriva l'importanza di calibrare i segnali di apertura, di chiusura, di avvicinamento e allontanamento. Quando si tocca una zona sensibile, si tocca un valore critico, avremo una chiusura, un allontanamento dalla persona. E in quel caso occorre quindi fare retromarcia.